31 ottobre ho chiacchierato con Angelica. Parliamo soprattutto di musica e della sua vita. Era appena giunta la notizia della morte di Sean Connery. Angelica, detta Angie, mi dice che per lei era l'uomo più bello del mondo. Poi dopo l'ho smesso perché sono rimasta incinta e col pancione non potevo più, col bambino piccolo e basta. Il destino delle donne. Adesso potrei riprendere, però c'ho ancora una chitarra. Pensa che fortunata che sono stata. Io avevo due chitarre in casa, no? Una era una chitarra, sai quelle lì, brutta, ma proprio brutta, di quelle che ti, magari se compri tre cartoni di vino ti regalano quelle schifezze lì. E una era una Ramirez che mi aveva regalato mio papà, me l'aveva portata, fatta da un liutaio a mano dalla Spagna, il paese della chitarra classica, Segovia e compagnia. Sono venuti i ladri in casa mia anni fa, no? Una sera. Allora, mi hanno rubato la schifezza e quella libella me l'hanno lasciata. Ho detto, beata ignoranza. Ero troppo contenta, guarda. Ma sì, che se la portino via quella schifezza. Meno male, ladri non troppo competenti, insomma. Per niente proprio. Meno male, ti faccio una foto. No, sono tutta spettinata. Ah sì, non mi sembra bene così.